La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Riforme in primo piano dopo lo stop della Camera a modifiche in tempi rapidi all'attuale legge elettorale. A parlare oggi è Matteo Renzi, che invita il Presidente del Consiglio Letta a non vivacchiare. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Ascoltiamo allora l'intervento di Renzi. Se noi vogliamo dare un segnale chiaro agli italiani che le cose cambiano davvero, la prima vera cosa da fare, che richiede una riforma costituzionale, lo dico ai giornalisti, quindi richiede tempo. Io non sto mettendo furia al governo perché immagino nel giochino mediatico, ah vedi Renzi lo fa perché vuole accelerare, ma che accelerare? Per fare la riforma costituzionale ci vuole molto di più che non per fare semplicemente una riforma di legge elettorale. Ma un governo è serio se fa le cose, non se bivacchia. Un Parlamento è serio se fa le cose, non se bivacchia. Si abbia il coraggio di affrontare il tema della riforma costituzionale eliminando il Senato come lo conosciamo oggi e immediatamente semplificando in primis il tema della legge elettorale, perché a quel punto si pone il problema di una legge elettorale unica, non che dia due risultati diversi come oggi. Due, di rapidità e velocità del processo decisionale. Dobbiamo partire mettendosi in gioco noi, dobbiamo anticipare Natale noi. Se vogliamo davvero essere coraggiosi e se vogliamo essere il cambiamento che chiediamo agli italiani, dobbiamo dire che siamo pronti a farlo. Se non siamo pronti a farlo, e può darsi che noi non siamo pronti a farlo, non ci lamentiamo di una legge elettorale che è stata fatta nel modo più atroce possibile. Io immagino che la faccia di Calderoli, quando torna a casa e fa la legge elettorale, sia stata più o meno questa. Lui torna a casa e dice: ho fatto una bella porcata. Non sto mettendo fretta al governo, ma governo e Parlamento funzionano se fanno le riforme non vivacchiano. Queste dunque le parole di Renzi, che abbiamo sentito nel suo intervento chiude ricordando al Porcello, rimandando al Porcello, ma quanto disse il ministro Calderoli tempo dopo la formazione di quella legge elettorale che ancora ci portiamo dietro. A replicare al sindaco di Firenze è Bersani: non saper distinguere fra leadership democratica e uomo solo al comando mi sembra un bel problema, dice l'ex segretario del Partito Democratico, che aggiunge: è come confondere la medicina con la malattia, sarà meglio discutere sul serio. Così quindi Bersani. 349-238-6666 il numero, lo ricordo, per i vostri sms. Più diplomatico il premier Letta, che è intervenuto al Senato, ribadisce: non sprecheremo questa occasione per le riforme. Ascoltiamo Letta. Ritengo, come ho spiegato, che rispetto a tutti questi temi oggi noi abbiamo una grandissima occasione. Questa occasione vorrei che la cogliamo fino in fondo, e vorrei che cogliere questa occasione fino in fondo vuol dire sapere che attorno a questa scelta ci giochiamo la credibilità tutta delle istituzioni e della politica nei confronti dei cittadini. Io sono convinto che non sprecheremo questa grande occasione. Grazie. E così dunque le parole del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Renzi è una rivista, pensasse a fare il sindaco, se almeno è capace di fare quello, scrive Fabio al 349-238-6666. Sulla stessa linea del Premier, il Popolo della Libertà, dall'entourage di Berlusconi, invitano tutte le forze politiche a non fare corse in avanti sulle riforme. L'invito è logicamente rivolto al principale alleato del governo di larga intesa, al Partito Democratico. Prima l'architettura dello Stato viene spiegato da via dell'umiltà, da quella discenderà la forma di legge elettorale. Ascoltiamo allora il sottosegretario Simona Vicari. La legge elettorale si deve fare e deve essere a completamento del processo delle riforme costituzionali. Prima si stabilisca la forma di governo e poi si fa la legge elettorale, altrimenti il rischio è di vanificare ogni sforzo riformatore. E con queste parole del sottosegretario Vicari chiudiamo la pagina dedicata alle riforme. Oggi ampio spazio, sta succedendo un po' ultimamente, al Movimento 5 Stelle, continua la battaglia personale, dico io, di Grillo, battaglia che coinvolge oggi addirittura Stefano Rodotà. Quest'ultimo aveva criticato nei giorni scorsi la reazione del leader del Movimento 5 Stelle all'esito delle amministrative. Rodotà aveva detto: Grillo ha sbagliato di fatto nei suoi commenti, nell'analisi del voto. Oggi Grillo sul suo blog allude a Rodotà e scrive, lo definisce un tatuaggio in ario miracolato dalla rete, sbrinato di fresco dal mausoleo dove era stato confinato dai suoi, a cui auguriamo di rifondare la sinistra. Questo dunque l'attacco di Grillo a Rodotà. Grillo poi tra ieri sera ed oggi torna a rivolgersi ai suoi, invita tutti coloro che avessero mai l'idea di affiancarsi, di allearsi con il PD in qualsiasi forma, anche su alcuni passaggi parlamentari, di uscire dal movimento. Per Grillo, lo ricordiamo, non c'è differenza tra PD e PDL-L, come lui definisce il Partito Democratico. Altro tema che coinvolge il 5 Stelle è quello delle commissioni parlamentari. Ricordiamo che mancano all'appello Copasir e Vigilanza Rai. La presidenza di queste vanno per usanza parlamentare alle opposizioni. 5 Stelle ne rivendica quindi la guida. Sentiamo su questo il parlamentare Frusone. Queste, le presidenze di queste due commissioni, la presidenza del Copasir appunto va all'opposizione. Noi, essendo la forza d'opposizione più grande e quella che effettivamente da subito si è definita come forza d'opposizione, riteniamo che sia giustissimo, sia anzi obbligatorio darci queste presidenze, quindi non vedo il perché non darcele, insomma. E questa è quindi la rivendicazione del Movimento 5 Stelle delle due commissioni, probabilmente le più importanti a livello parlamentare, perché intervengono su due aspetti importanti della nostra democrazia: la vigilanza sulla RAI e la vigilanza sui servizi segreti, commissioni che nel passato sono state appannaggio dell'opposizione, ma che a due mesi ormai dalla formazione del Parlamento non hanno una presidenza, proprio perché il governo di larghe intese evidentemente come opposizione in Parlamento vede solamente il Movimento 5 Stelle, quindi è abbastanza difficile trovare un'intesa per la formazione delle stesse. Veniamo al 349-238-6666, l'argomento di Renzi evidentemente appassiona i nostri ascoltatori. Renzi è l'uomo che salverà il paese, scrive Rosanna. Ogni volta che Renzi può emergere scappa, come mai, si domanda invece Massimo. Ma come si fa a sperare in riforme da parte di questo governo? A loro del paese non interessa niente, non interessa nulla della gente. E quanto scrive un altro nostro ascoltatore: Bersani tra 40 anni sarà un buon presidente della Repubblica. E poi ci abbiamo Ruggero che giustifica Grillo e dice: nessun attacco a Rodotà, Grillo gli ricorda solo che va dietro a quelli che per la sua onestà lo hanno affossato. Questi i vostri SMS. Oggi ad intervenire è anche il capo dello Stato. Napolitano interviene sul tema del lavoro, un tema molto sentito dal Presidente della Repubblica. Ascoltiamo le parole allora di Napolitano. Dobbiamo essere una Repubblica all'altezza dell'articolo 1 della Costituzione. Quel primo articolo ebbe grande significato, si discusse moltissimo in Assemblea Costituente e si scelse questa dizione anziché l'altra: è una Repubblica dei lavoratori, fondata sul lavoro e qualcosa di più. Significa che c'è un principio regolatore a cui si debbono uniformare tutti gli attori sociali e tutte le rappresentanze politiche. E tuttavia, rispetto ad allora, teniamo presente che il problema della disoccupazione giovanile non è un problema puramente italiano. Queste le parole di Napolitano. Il problema della disoccupazione giovanile non è quindi un problema solamente in italiano, dice il capo dello Stato, ma certamente ricordiamo i numeri veramente impressionanti della disoccupazione, soprattutto al sud, che sfiorano anche il 40%. In questo momento arriva alle agenzie la replica di Rodotà a Grillo. Capisco cosa mi vuole chiedere, ma non ho niente da dire, non commento, non è nel mio stile, dice Rodotà, che evidentemente comunque non la prende bene rispetto all'attacco di Grillo. I vostri SMS al 349-238-6666, bisognerebbe dare o dati reali quelli statistici delle elezioni. Evidentemente un nostro ascoltatore invita tutti i giornalisti a raffrontare meglio i dati usciti dalle amministrative, ma perché quando parla Renzi capisco tutto, magari non sono d'accordo, ma lo capisco quando parlano Bersani o Alfano, non capisco nulla, scrive Franco. Un altro ascoltatore rivolto sempre a Renzi, mi sembra un furbetto, ed ancora un altro ascoltatore che difende Grillo e dice non ha offeso Rodotà. Sono questi giorni in cui specialmente a Roma, ma anche in tutte le altre città coinvolte dai ballottaggi, si guarda quindi ai ballottaggi del 9 e 10 giugno. In questo momento sta parlando Marchini qui a Roma, sta spiegando che aspetterà di incontrare i vari pretendenti al Campidoglio, ricordiamo essere Marino e D'Alemanno. Marchini in questo momento dice l'esperienza di Alemanno è un'esperienza deludente, dobbiamo dare risposte concrete. Da sempre abbiamo denunciato in modo assolutamente netto l'esigenza di discontinuità forte rispetto all'esperienza di chi ha governato, dice Alfio Marchini. Ho sempre detto che la mia proposta era rivolta a tutti quelli che non si riconoscevano nell'esperienza, a mio avviso deludente, di Alemanno e credevano nella necessità di discontinuità, ha aggiunto Marchini, e che poi ha aggiunto ancora, ha definito straordinario il risultato raggiunto nelle elezioni comunali del 26 e 27 maggio. Questa dunque la posizione di Marchini, che sembra propendere per Marino quanto invece al candidato grillino De Vito a Roma. Ancora non si sa come potranno essere orientati i suoi voti, ma sicuramente qualora dovesse seguire le indicazioni di Grillo sarà un voto senza un'appartenenza politica. C'è poco da fare, Renzi ha ragione, non da poco, alle palle, dice addirittura Stefano. Cosa continuate a mettere gente incompetente a condurre il nostro paese, scrive un altro ascoltatore. Insomma, la figura di Renzi e di Letta dividono il paese. La politica alla prova per oggi termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.